Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano, penose le battute liquidatorie sull'unità d'Italia, nord e sud insieme per uscire dalla crisi. Borse in flessione dopo il record di ieri dal Fondo Monetario e dall'Europa, richiamo sui conti pubblici. Il vulcano islandese sta per colpire ancora, nuova nube in arrivo sul nostro paese. Elezioni inglesi in corso, le trattative tra laburisti e Lib Dem, Clegg e l'ago della bilancia. Buona giornata da Simone Spezzi e dalla redazione. In apertura di questa edizione le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione di un altro degli appuntamenti per le celebrazioni dell'Unità d'Italia. In diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Un duro monito alla Lega contro la secessione, quello del Capo dello Stato in una sede storica per l'Unità Nazionale a Marsala per celebrare lo sbarco dei mille. Giorgio Napolitano si scaglia appunto contro la secessione e sentiamo cosa ha detto il Presidente della Repubblica. Si può considerare solo penoso che da qualunque parte, nel sud o nel nord, si balbettino giudizi liquidatori sul conseguimento dell'unità, negando il salto di qualità che l'Italia tutta, unendosi, fece verso l'ingresso a vele spiegate nell'Europa moderna, mentre chi si prova a immaginare o a prospettare una nuova frammentazione dello Stato nazionale attraverso secessioni o separazioni comunque concepite, coltiva un autentico salto nel buio. Nel buio intendo dire di un mondo globalizzato che richiede coesione degli stati nazionali europei entro una unione più fortemente integrata e non macro regioni allo sbando. Accolto da un bagno di folla con cori, applausi e bandierine e tricolori, il Capo dello Stato ha quindi incentrato il discorso, come avete sentito, sull'unità nazionale, l'unità che ci ha dato un ruolo non passivo ma da protagonista in Europa, nessuna reticenza sul mezzogiorno, bisogna debellare la piaga mortale della criminalità organizzata, dice il Capo dello Stato. Nessun commento leghista sul monito contro la secessione. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Dunque, per questi aggiornamenti il Presidente della Repubblica ha parlato anche di crisi e di crescita economica e ha detto che l'Italia deve nel medio e lungo periodo crescere di più solo se si metteranno insieme appunto nord e sud. E nella giornata di oggi, a proposito di crisi, c'è da registrare la presa di posizione del Fondo Monetario Internazionale. Secondo il Fondo, l'uscita dell'Italia dalla recessione sarà più lenta rispetto a quella di Francia o Germania. Il Fondo chiede anche sforzi di risanamento dei conti pubblici a molti paesi. Le politiche macroeconomiche adottate per affrontare la crisi, si legge in un documento, sono ancora necessarie per assicurare la ripresa, ma i costi e i limiti di diversi interventi destano preoccupazione. Ma c'è anche l'intervista pubblicata oggi dal Sole 24 Ore al commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, il quale sostiene che l'Italia debba fare di più sul fronte dei conti pubblici. Dunque, venerdì il Tesoro ha annunciato una correzione da 25 miliardi per i prossimi tre anni, eppure si dice che non ci sarà manovra aggiuntiva. Siamo con Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino, che vuol dire tutto questo? Vuol dire che il governo si appresta a varare con un decreto che arriverà alla fine di giugno una manovra biennale di 25 miliardi che servirà a portare nel 2011 il deficit al 3,9%, ora siamo al 5%, e nel 2012 a portarlo sotto il 3%. Quindi questo è per far fronte agli impegni che l'Italia ha già preso nei confronti dell'Unione Europea. E ricordo che ci fu una raccomandazione dell'Ecofin di dicembre che diceva esattamente questo. Per quel che riguarda l'anno in corso, è probabile che nello stesso decreto ci sia una qualche correzione anche per finanziare delle spese che il governo giudica inderogabili, ad esempio si parla del rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Dunque, rispetto diciamo, all'importo complessivo della manovra, quella parte che riguarda il 2010 sarà sicuramente limitata. Quel che conta è che il governo dovrà già il ministro Tremonti lunedì all'Eurogruppo e poi martedì all'Ecofin, dovrà appunto convincere il commissario Rehn che il percorso di risanamento che l'Italia sta mettendo in piedi è sufficiente a sostenere un debito che è comunque in crescita. Bene, bene, grazie dunque a Dino Pesole. Noi adesso ci spostiamo per andare a vedere qual è la situazione sui mercati, complessivamente più tranquilla sia rispetto ai cali della settimana scorsa che al record di ieri. Deborah Rosciani. Sì, allora, più tranquilla sul fronte del mercato azionario sicuramente. Abbiamo dei ribassi che adesso per la verità stanno un po' peggiorando rispetto al nostro ultimo collegamento e sono nell'ordine di 2,5 punti su Milano e su Parigi, mentre sono più limitati i cali di Francoforte, -1,33% di Londra, -1,75%, per cui prese di profitto sul mercato come era inevitabilmente nelle attese. Possiamo considerare una situazione fisiologica quella che si sta manifestando sul mercato azionario questa mattina. Ovviamente a scendere di più sono tutti i titoli del settore bancario, protagonisti di rialzi eccezionali ieri. Più problematica invece appare di nuovo la situazione e sul versante valutario, perché l'euro, che sul dollaro ieri era schizzato oltre la soglia di 1,30, stamattina ripiegato prepotentemente, si è riportato a 1,26,83, e ancora rinnovata tensione anche sul mercato obbligazionario. Questa nuova tensione è tornata soprattutto sul fronte greco, dove i rendimenti dei titoli di Stato sono tornati a crescere. I tassi delle obbligazioni decennali sono risaliti stamattina al 7,85%, dal 6,7% di ieri. In risalita anche i rendimenti biennali al 7,6%, dal 5,4% di ieri. E poi abbiamo anche un'interessante situazione in Italia, dove stamattina c'è stata un'asta di titoli del tesoro annuali, di bot annuali. Il tesoro ha offerto 5,5 miliardi di euro. La richiesta dagli investitori è stata più che doppia, oltre i 10 miliardi. Il titolo è stato piazzato ad un rendimento dell'1,44%, un rendimento che non si vedeva da oltre un anno. Simone. Grazie dunque Deborah per questi aggiornamenti. Nel frattempo l'Italia conferma la sua posizione almeno per quanto riguarda la condizione economica dei lavoratori. Tra i paesi dell'OCSE si colloca al 23° posto su 30 come salario netto, con un 16,5% in meno rispetto alla media. E anche di lavoro e di salari si è parlato questa mattina in un convegno organizzato dalla Fondazione Fare Futuro, quella che fa riferimento al presidente della Camera Gianfranco Fini. Maria Chiara Grandis, buongiorno. Sì, buongiorno. Il Presidente della Camera tocca i problemi del mercato del lavoro aprendo appunto il convegno qui alla Fondazione Fare Futuro, dove si discute oggi dei nuovi indicatori del benessere oltre al PIL e anche di sostenibilità dello sviluppo. E per fini uno sviluppo sostenibile include una possibilità di futuro lavorativo per le giovani generazioni, un futuro che non sia una sorta di permanente precarietà come avviene oggi in Italia. E allora sentiamo le parole del Presidente della Camera. Siamo passati ad un eccesso opposto, certamente non voluto da quegli uomini, cito Biagi in primis, che posero il problema della flessibilità. Siamo passati ad un eccesso opposto perché oggi c'è una flessibilità che significa in qualche modo permanente stato di precarietà, con una contraddizione rispetto ad altri mercati europei. In Germania c'è un ricorso massiccio di contratti di lavoro a termine, ma quei contratti presuppongono salari che sono mediamente più alti rispetto ai salari dei contratti a tempo indeterminato. Per fini la politica economica oggi ha il compito di realizzare un equilibrio fra compatibilità di bilancio e innovazione. La strada, dice, è il controllo della spesa, pur sapendo riconoscere le priorità. Ma il convegno di Fare Futuro è anche l'occasione per il Presidente della Camera di tornare sulla crisi greca. Se ci si comporta da cicale, prima o poi si risponde delle politiche non virtuose, dice. Infine il Presidente della Camera dichiara di appoggiare la proposta della cancelliera tedesca Merkel sull'istituzione di un'agenzia di rating europea. E questo perché alcune sentenze possono portare gli stati alla bancarotta, anche se poi non sono vere, spiega Fini e cita a proposito il caso Lehman Brothers. Da Roma è tutto, linea a voi. Grazie dunque a Maria Chiara Grandis. Una notizia di poco fa: è morta Roberta Di Camerino, creatrice di moda, fondatrice di uno dei marchi italiani più famosi nel mondo. Era nata Giuliana Cohen, aveva 90 anni, morta la notte scorsa all'ospedale civile di Venezia, dove era stata portata dopo essersi sentita male nella sua barca in Istria. Dopodomani i funerali nel ghetto veneziano, poi la salma verrà tumulata nel cimitero ebraico del Lido. Barack Obama, che non si è mai presentato come nemico delle nuove tecnologie, lo sapete, ha portato il BlackBerry alla Casa Bianca, ha twittato nella sua campagna elettorale, ha fatto il vecchio brontolone di fronte agli studenti dell'Università della Virginia. Barack Obama lo ha detto in maniera scherzosa, ma lo ha detto. With iPods and iPads and Xboxes and PlayStations, none of which I know how to work, information becomes a distraction. Con iPod, iPad, Xbox e PlayStation, che non so come funzionino, l'informazione diventa distrazione e una forma di intrattenimento piuttosto che di emancipazione. Come coniugare democrazia e rete? La domanda è nuova perché prima sembrava un binomio scontato e forse lo stesso Obama ancora non conosce la soluzione. We can't stop these changes. Non possiamo fermare i cambiamenti, possiamo incanalarli grazie all'educazione, dice Obama, per una volta in stile vecchio zio. Non dica però che non sa usare l'iPod. Gli artisti americani litigano su chi fa parte o meno della sua playlist. Ne ha persino regalato uno alla regina Elisabetta e ci sta più simpatico nella versione pop che in quella bacchettona. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13, 15 minuti e 30 secondi nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato, abbiamo riferito alle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che parla di battute penose, dice che sono penose le battute liquidatorie sull'Unità d'Italia. Poi siamo tornati sui mercati per sentire com'è la situazione. Oggi borse in lieve flessione, abbiamo parlato della situazione dei conti pubblici italiani e poi vi abbiamo raccontato delle parole di Barack Obama sulle nuove tecnologie. Ora ci occupiamo di elezioni inglesi. Perché i Lib Dem sono in piene trattative con entrambi gli schieramenti, ci colleghiamo con la nostra Giorgia Scaturro da Londra. Giorgia. Buongiorno, e con oggi siamo ormai al quinto giorno di Parlamento impiccato e la tensione sembra aver raggiunto proprio il suo apice. 60 milioni di britannici sono appesi alla decisione di Nick Clegg, il leader dei liberal democratici, che ufficialmente sta trattando la formazione della coalizione di governo sia con i conservatori che, proprio in queste ore, alla Camera dei Comuni, con i laburisti del primo ministro Gordon Brown, che ieri, lo ricordiamo, per facilitare la trattativa ha anche sacrificato la sua poltrona, dimettendosi come leader del partito. A questo punto Clegg ha ottenuto ciò che voleva, il referendum sul sistema proporzionale che i laburisti gli avevano già offerto e che ieri anche i conservatori sono stati costretti a rilanciare sul piatto. David Cameron questa mattina ha parlato ai giornalisti dicendo che per Clegg è il momento della scelta e il leader dei liberal democratici è sotto pressione, sentiamolo. Siamo in una fase critica e conclusiva, ha detto Clegg, dichiarando di essere anche lui impaziente che si arrivi ad una decisione prima possibile, ma sul quando devo purtroppo rimandarvi alle prossime edizioni del GR. A voi. Grazie Giorgia, quindi ti sentiremo e vedremo che cosa succederà anche nel corso di questa giornata. Siamo alla marea nera del Golfo del Messico, sono ormai oltre 15 milioni litri di greggio fuoriusciti dal pozzo sottomarino, sono falliti tutti i tentativi di bloccarlo, ora si tenta con i solventi. La cura è peggio del male, ci si domanda oggi in Louisiana? Ovvero, spruzzare solvente sul petrolio è una soluzione o un aggravio del problema? Così trattato, il greggio dovrebbe frantumarsi e precipitare sul fondo, ma, sottolineano i media americani, il Corexit, il solvente che la BP ha avuto il permesso di adoperare, è fuori legge in Gran Bretagna perché nocivo per la salute umana e animale. Vogliamo essere certi che non ci saranno danni a lungo termine, dice Bobby Jindal, il governatore della Louisiana. Altre opzioni, dicono gli ambientalisti, ci sono, ma, ribatte Mary Landry, il portavoce della Guardia Costiera, dalla BP stiamo pretendendo risposte che di solito si danno in anni. La British Petroleum intanto sembra ricorrere all'ultima risorsa. Per ora l'incidente alla piattaforma le è costato circa 270 milioni di euro, ma è nulla rispetto al disastro che il petrolio sta provocando alle coste americane. E allora ecco il crowdsourcing, un appello via internet a tutti gli esperti appassionati. Chi ha un'idea che reputa valida per contrastare la marea nera può contattare la compagnia su www.bp.com. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla nuova nuvola di cenere in arrivo dal vulcano islandese. È notizia battuta un attimo fa dalle agenzie. Sono le parole del ministro dei trasporti Altero Matteoli, che dice: per il momento non c'è nessuno nuovo stop ai voli. I voli saranno oggi in Europa saranno circa 29.000, ossia nella norma per questo periodo dell'anno, e quanto rende noto un comunicato stampa di Eurocontrol, l'ente europeo per il controllo aereo. Tuttavia, zone a forte concentrazione di ceneri provenienti dal vulcano islandese sono questa mattina nel sud e nel centro della Spagna e in Portogallo, comprese le isole Canarie e Madeira. Per quanto riguarda invece appunto la presenza di ceneri ad alta altitudine, la concentrazione nel mezzo dell'Atlantico tende a disperdersi e quindi si prevede una situazione meno difficile appunto per i voli transatlantici. E c'è anche chi mette in dubbio i dati che vengono diffusi dalla stessa Eurocontrol, la struttura che monitora la diffusione delle ceneri. Il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, non esclude che l'Italia possa decidere, su impulso del governo, di uscire dalla gestione di Eurocontrol e fondarsi su altri dati. Sentiamo Riggio, intervistato da Alessandro Milan questa mattina in Bianco o Nero. Io dico che siccome sono modelli matematici, è chiaro che il computer ti dà quello che ci metti dentro. Siccome noi non sappiamo bene cosa viene messo dentro in termini di soprattutto concentrazione delle polveri, è chiaro che se c'è un altro centro altrettanto autorevole che ha un diverso, come dire, esito, e noi quantomeno facciamo una comparazione. Dovrebbe farlo anche Eurocontrol, a mio modo di vedere, perché la rottura con Eurocontrol è una cosa che io non mi auguro e in ogni caso non possiamo fare noi come autorità dell'aviazione civile. Se tre ministri o quattro o cinque chiedono a Eurocontrol un'ulteriore revisione della zona no fly, vediamo. E del vulcano abbiamo parlato nel nostro sondaggio di oggi. Vi chiedevamo se secondo voi c'è stata una precauzione eccessiva nella chiusura dei vari aeroporti europei. Hanno prevalso i no con il 67%. È realmente terrificante come la Chiesa oggi soffra per gli attacchi dal suo interno, dal peccato che esiste dentro la Chiesa stessa. Lo dice Benedetto XVI a proposito dello scandalo pedofilia, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il volo che lo ha condotto in Portogallo. Oggi le più grandi persecuzioni alla Chiesa non vengono da fuori, ma dai peccati che ci sono dentro la Chiesa stessa, evidentemente. Ancora il pontefice, sofferenze che, ha detto Ratzinger, fanno parte di quelle annunciate nel terzo segreto di Fatima, fulcro del viaggio in Portogallo, proprio la visita a Fatima giovedì. Settimana cruciale per l'inchiesta sugli appalti per G8 e grandi eventi, in corso davanti al Tribunale del Riesame di Perugia l'udienza sulla richiesta d'arresto per l'ex commissario dei mondiali di nuoto a Roma Claudio Rinaldi e per il commercialista Stefano Gazzani, arresti che il GIP non aveva concesso nelle scorse settimane per motivi di competenza territoriale. E invece è fissata per venerdì la deposizione dell'ex ministro Scajola in qualità di persona informata sui fatti. Intanto dagli atti dell'inchiesta emergono nuovi particolari. Spunta la lista degli appalti sospetti dalle carte dell'inchiesta su G8 e grandi eventi, appalti ottenuti dal costruttore Diego Anemone tra il 2002 e il 2009. 21 commesse per oltre 100 milioni di euro con il solo provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, guidato fino al 2005 da Angelo Balducci, l'altra figura chiave dell'inchiesta. Tra i committenti figurano Senato, Presidenza del Consiglio, Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Difesa e delle Finanze, per opere quali carceri, caserme e sedi dei servizi, aggiudicate con procedure d'urgenza e vincoli di riservatezza. Per i PM di Perugia la lista nasconderebbe la contropartita per i favori di Anemone ai personaggi politici e non coinvolti. Una lista sulla quale sono intenzionati a fare luce anche grazie alla collaborazione di Angelo Zampolini, l'architetto che secondo i PM consegnò al ministro Scajola gli 80 assegni circolari messi a disposizione da Anemone per l'acquisto dell'appartamento vicino al Colosseo. Collaborazione premiata dai PM con la rinuncia al riesame per la richiesta d'arresto. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora gli aggiornamenti sulla vicenda del pestaggio di Stefano Gugliotta. Sarebbero stati già identificati, grazie a due video girati dagli abitanti della zona, i tre poliziotti autori del pestaggio di Stefano Gugliotta. Saranno ascoltati in procura per chiarire i fatti che hanno portato all'arresto del 25enne nei pressi dello Stadio Olimpico dopo la finale di Coppa Italia fra Roma e Inter. Non è escluso che nei loro confronti venga aperto un fascicolo per lesioni volontarie. A differenza di quanto sostengono le forze dell'ordine, il giovane continua a negare di aver partecipato ai disordini scoppiati nel dopopartita, una versione confermata anche da diversi testimoni, alcuni dei quali sono stati ascoltati stamattina in procura. Gugliotta intanto è ancora ricoverato nell'infermeria del carcere di Regina Coeli con un dente rotto, una ferita in testa suturata con 6 punti e lividi su tutto il corpo. Il suo avvocato avvocato ne ha chiesto la scarcerazione, come ieri anche oggi alcuni parlamentari dell'opposizione hanno deciso di fargli visita in carcere, mentre il ministro dell'Interno e il capo della polizia assicurano che sulla vicenda sarà fatta piena luce e gli eventuali responsabili saranno puniti. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso, nella giornata di pausa per il Giro d'Italia, si parla di doping, se ne parla a livello governativo, con una nuova iniziativa, ce la racconta Nicola Accardo. Nicola. Sì, buongiorno. Saranno gli ispettori investigativi antidoping. Sono carabinieri che dovranno combattere il doping nelle palestre e nello sport amatoriale. Come annunciato dal ministro della Salute Ferruccio Fazio, dai vertici dei NAS, gli ispettori saranno qualificati grazie a un corso di formazione a carico del Ministero. I dati sullo sport dilettantistico sono infatti preoccupanti. Il 4% degli atleti assume sostanze dopanti contro l'1% nello sport professionistico. Il ministro Fazio ha presentato oggi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e quello allo sport Rocco Crimi la campagna che da domani coinvolgerà gli spettatori del Giro d'Italia. A tutti verrà distribuita una borraccia trasparente con lo slogan "Niente doping, solo sport". Presente anche il presidente del CONI Gianni Petrucci e il suo vice Pancalli. L'Italia fa una lotta al doping superiore agli altri paesi, ha detto Petrucci. È ora di introdurre un numero minimo di controlli anche nel resto d'Europa. Ogni anno ne effettua 13.000 e da Roma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie dunque Nicola Accardo, è tutto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piero Cece e Daniele Biacchesi con in regia Carmelo Lauricella. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.